Giuscio, dimmi. Ehi, ecco nero, bene, sto bene. E allora si è finito tutto. Il tempo non l'ha permesso. No, magari stiamo facendo il televisore, ma niente. Boh, il coppio è molto basso perché c'è un bel QRM, Falcone. Cosa hai detto? C'è un po' di propagazione, ci stanno oltrepassando. Avanzaci dov'è? Avanzaci dov'è? Ok, ci sono questa propagazione che ti copre di brutto, è proprio completamente. Sì, adesso sì, quando non parla quella ragazza, non so di dove c'è il cuffio, però quando va bene ti copri completamente. Attenzione canale 10. Attenzione Fabrizio canale 10, attenzione Fabrizio. Negativo, ho fatto una chiamata generale, ma siccome ci siamo sentiti un attimo, ma ebbene non. Cosa mi dici? No, non posso dire niente qua. Ah, vabbè. Va bene, se dopo se non ti disturbo ti faccio una bassa. Va bene. Perché sempre che sia una cosa che comunque si può salire, cioè non voglio minimamente. Non è roba che tocca a me, a me è già toccata. Comunque quando vuoi chiamami, ne parliamo tre. Giro, giro. Fabrici sei? Una portante sotto, avanti chi sta cercando di entrare. Negativo. Dove sei, via Rocca? Cappa di Roggero. Ma stai guba, un'altra guba. Passi dalla 500 alla Mercedes. E vabbè, perché qua c'è la binata vincente, dai. Normale, è normale. Assolutamente, male sarebbe se non fosse così. Guarda un attimino, cos'è meglio? Siccome forse l'ho sbottato, come deve essere tenuto il secondo pulsantino? Sui 500 o sui 50? 50 alto, capo di ordine, così è. E così è, infatti. E vabbè, se va buono. Con cosa stai modulando tu adesso? Con la 44. Attenzione Falcone! Cosa dici, Giamendi? Io sto andando con l'Avan 44. Ma ti stai chiamando? Ah, tocca, veramente, Avan 44 c'hai? Io? 48 non funziona più, allora sto usando 44. Va molto bene, non sono problemi. Telefono amico, no. Ma sto cercando uno, cazzo, io ne ho uno lo stesso, 44. Oh, non da Watt, fuori messo a posto. Ma c'è una concessione, mi capito, qua, c'è nel Fulvio, l'avevo fatto, vabbè, cosa per, diciamo, per mettermi in regola, ecco. Sì, lasciatelo fare, se ce l'hai in concessione, è meglio che lo tiri. Non c'è problema. E adesso non c'è più l'obbligo di mettere gli apparati baracchini in concessione, adesso non c'è più, quindi è relativo. Relativo no, a me mi hanno detto che la 2023 sì, è omologato di vecchia generazione, eccetera eccetera, però non è conforme al decreto ministeriale in vigore, capito? Quindi in uso è sempre fuori regola. Fuori norma, in uso, in detenzione no, ma in uso è fuori regola, comunque siamo 23 canali con una M solo, 4 Luca, riprendi. Tu mi stai buriando, eh. Vabbè, comunque, ripeto, il mio non da Vattenfall, capito? Non so cosa le abbia preso. Cambia i finali, ma niente, non so, forse magari qualche componente che non... Non riesce a farmi il pilota di finali, boh. Adesso devo dare un'occhiata su internet se c'è. Vediamo, posso trovare. Anche per questi di ricambio, sai, anche se lo smitter rotto, se hai i tappi messi male, se hai i filari bruciati, interessante che sia buona la scheda madre, ecco, dell'apparecchio. Poi mi arrangio io. Avanti, Black. Tutti, da questa parte Antonio Bombo, K. K, ciao Antonio Bombo, l'ho ben sentito. Oh Luca, scusa, mettilo in una busta e portalo da Pomponi o te lo mette a posto lui, non c'è problema. Allora, ci ha proprio messo male, tu. È messo male perché ha tutte le piste saldate lì, per me ci vorrebbe una scheda nuova, capito? Ma guarda che adesso queste cose le c'ha a fare, il suo lavoro ci mancherebbe, te lo rimette a nuovo, in men che non si dica. Poi, guarda, c'è da dire una cosa, io scherzo, ci mancherebbe, però lui saldando, salda molto di fino, è ordinato nel lavoro, prova a portarglielo, scusa. Poi ci viene di paura una cosa. Cosa, perché? No. Ok, adesso arrivo subito, dai, vada bene. Io me ne sono scelto l'acqua, mi piace. Ma c'è qualcun altro che sta modulando? Ciao Bombo, c'è Antonio Bombo, ma non è nel QTH, è un altro QTH, perché non lo senti. Ma lui già lo sento, pensavo che c'era qualcun altro più basso. Sì, non essendo Antonio dirà tutto su. Così mi piace Anto, così mi piace. Anche aspetta che lo mettiamo a regime un attimino, come ha insegnato Gio Claudio. Eccolo qua. No, no, questo c'è la radio. La radio di uno ti fa ascoltare come cristiani. L'altro, mamma mia, occupa molto con una radio che non è conforme alla tua, mi. Per capirci. Questa è una bella radio. Questo è un buon microfono sicuramente. Nonostante sia un baracchino, è un bel microfono sicuramente, si adegua molto, capito? Va bene. E questo è un 44, funziona sempre, ogni tanto lo mettiamo in uso. A partire oggi no, già va più che bene, né più né meno è questo. Si sente che è un bel baracchino, che c'è un bel microfono abbinato. No. Io devo dire la verità, due lineari li ho portato e me li ha aggiustati tutti e due, sono rimasto soddisfatto, sono rimasto più che soddisfatto, tant'è vero che quando mi capita qualcosa comunque glielo porto sempre, l'unica cosa che non è riuscito ad aggiustare, ma perché era proprio a una mina, era l'alimentatore che adesso c'è a Sandro Conan, adesso lo devo sentire uno di questi giorni, però ha fatto il possibile. Ha fatto il possibile. No, saldare, bisogna saper saldare, caro Claudio, bisogna avere mano ferma e occhio attento e devi riuscire a fare delle saldature buone, perché rischi di bruciare gli apparecchi meglio. Antonello ci sa fare, devo dire la verità, io scherzo molto con lui, lo sai che lo prendo in giro, però quando c'è da parlare seriamente sa fare il suo lavoro, dai. Di fare queste cose con lui e quindi non lo so, tutto qua, altro non posso dire. Bombolo bombolito, come ti tira da quelle parti? Come ti tira? Così un non vengono nell'occhio, non ci va provato, è collirio. Sto dando fastidio, cazzo, anche al buio. Si è scoppiata una porta rosatrice oggi. Di poco vita, tanto è mappigliato, ha preso la camicia al letto, mi ha spostato l'occhio. Ah, ipoclorito. Ah, quello è parecchino, ipoclorito. E io? No, con le botte. E io ero con le attrici, niente. Ho visto che stava perdendo. Ho abbassato la pressione. Come ho tolto la pompetta, evidentemente c'era aria e più. E ha appiggiato una via da faccia. Cazzo c'è l'occhio, ma non è allucinante. Oh mamma, la... Ma te lo sei fatto vedere? Sì, non c'è niente. Ma quello secondo che tu fa è guai. Che un acido è tu? Un acido corrosivo è abbastanza... Non è pesante come l'acido cloridrico, se no questo non ci ha avuto più l'occhio. Comunque mi ha bruciato un po', ce l'ho molto rosso, molto rettato, mi sto mettendo con l'idio la pomata, la pomata al cortisone, e poi sempre andare dobbiamo, un occhio, devo andare anche domani, possiamo prendermi domani, c'è un sacco di cose da fare, devo andare per forza. Devo correggere, non è un acido la parecchina. Che cosa poteva fare? Se ho teatro con la... Ipoclorito di sodio. Vabbè, ipoclorito di sodio. E che cos'è? Base. È un clorito, quindi una base. Base, chiama la base tu. È il 75% quello che danno a noi. La parecchina può essere un derivante dell'ipoclorito. Ma l'ipoclorito è un acido tutti corrosivo, acido e corrosivo, è irritante, corrosivo e acido, stai scherzando, è il 75% quello che usiamo noi, non è quanto la varecchina. Però che se tu la varecchina la unisci a un acido, addirittura se... Ci fai la pipì sopra, come spesso capita che si mette nel bagno per disinfettarlo, e dopo che non si tira l'acqua fino al giorno dopo per pulirlo bene, tende a sviluppare dei gas, perché fa reazione acido e base, perché l'urina contiene cosa? Ammoniaca, e quindi entra in contatto e tende a sviluppare sostanze poco salubri sicuramente. L'acido fluidico con l'ipoclorito di sodio è una bomba, non si possono unire come reagenti, perché è una bomba, capito? Arriva lo scoppio. L'ipoclorito di sodio a contatto con l'acqua è un reagente che non fa assolutamente nulla. L'acido fluidico e l'acido solforico e l'acido muriatico hanno un'altra reazione con l'acqua, tendono ad emanare fumo, a fare fumo, perché la reazione è in contemporanea. Scusa, io sono un occhio, mi sta dando un fastidio allucinante, e quindi niente. Però l'ipoclorito di sodio, la nostra, quella che danno a noi, non è base, è proprio reagente al 100%. A noi ci arriva al 75, a volte all'85%, perché va iniettata in rete tramite delle pompe dosatrici con delle percentuali molto basse, e quindi a contatto con l'acqua poi diventa biossido di cloro, e quindi è abbastanza basso come percentuale. Ma l'anno di biglia uscì, mi ha pigliato a me, a me ha buccato il pantalone di netto, cioè lui ha buccato il pantalone di netto, Siscia è già fra, come si dice, ti macchia la roba. Immagini già di proprio il reagente vero e proprio come le popoli cresciuti. È confuso questo, ma non ne sono accorto mai, non mi è mai successo. Di macchiare i pantaloni sì, ma di mettere la mia faccia mai. Meglio quello che l'acido muriatico, fosse stato l'acido muriatico Moshe Dayan, allora sì, ma queste cose, perché non vi mettete gli occhiali ogni volta? Lo so, anche tu hai ragione, infatti non metto niente a nessuno perché se no si incazzano, perché io che volevo l'esempio sono sempre quello più imbecille di tutti, capito? Perché tra l'altro faccio parte anche del suo salvo della sicurezza e ogni volta mi metto a voci quando non, invece io sono sempre a Pasquale Brato, hai ragione, ma è niente, ma era una cosa così di passaggio, visto che stava perdendo, ero da solo, l'ho stretta e evidentemente c'era aria nell'anno della pompetta, come ha abbassato la pressione, ha sbruffato proprio dal foro, dal buchettino che stava perdendo, mi ha preso in pieno. E io, no, noi muriati come ne usiamo? Ne usiamo l'acido clorlitrico in potabilizzazione, che appunto serve per la pulizia delle condotte. E poi vabbè, l'ipoclorito che poi è il triossido, lo usiamo per la batteria lucida. Va bene, non parliamo di lavoro, se no domani ci pensiamo. Domani faccio il pirata, tu. Bombolo, domani zio Claudio fa il pirata, con la benda all'occhio. Graffa, però cazzo usa delle protezioni, passa una cazzata quando entri lì dentro. Passa una trombata, passa e succede quello che succede. Adesso con un casino ci sarà un pochettino di giorni così ci darà un fastidio enorme. Mi brucia, mi pizzica, mi dà fastidio, sembra che c'hai della sabbia dentro l'occhio, capito? Adesso l'ho messo il collirio, ma vediamo. Vai che è arrivata la bambina di casa, la stella di casa, la luce del tuo occhio. Lo so, e adesso vado a salutare. Non ha mai dato lei, poverino. Sono attaccato a cielo l'occhio in fiamme, cioè. Non so quello che abbia detto, no? Non ha toccato non da niente. Ciao Topoli. Topoli. Ciao Paolo. Ciao. Faccia molto, Oye, i suoi a noi siamo buoni. Fatto quello che voglio tu, oh. Non mi ha messo via. Aspetta che ti telefono e mi dici quella cosa, dai. Per Rix, per me un attimino, tu ci sentiamo fra un attimo, il tempo di fare una bassa e dopo ci sentiamo. Vai, non ti preoccupare. E aspetta, chiamano a me, tu mi devi dire una cosa di lavoro, la riprendo subito anche io, aspetta. Bombolito. Ah. Allora, che si dice? Mentre che voi stavate parlando io mi sono sdraiato. Hai fatto bene. Non è solo che mi sono sdraiato. E mi stavo aspettando. Hai fatto bene, non c'è problema. per la fase rotta e si passa a tutto. Via, passa alloggi nel portale, signora Margherita. Io ci prendo la Brenda, che... La gamba. Ehi, ma ne siamo che fa, eh? E sicuramente no. Sicuramente non le fa male, no. Sono delle buone apparati quelle, magari la troppe poco davano anche una barca di soldi. Ehi, un bel denaro fa, parecchio, parecchio. Solo che non si trovano, non sono più neanche in commercio, capito? Sono proprio da collezionisti. Scappa. Vabbè, è un proprio commercio. Se funziona bene che se ne importa. La buona base. Però si può pensare che non va nuova. Sì, è perfetta. Ma mi ha detto che questo amico tuo c'è per negozio, quindi manco usata e passa. Se tu il primo a mettere in mano. Beh, quando sono così nuove, è quella la ragione. Certo, certo. Qui sono pesi di magazzino, quindi già viaggiano bene. Tanti d'accordo, per fare l'esempio, ma la fusata si prende il paracchino ed è nuovo, e così è la stessa cosa. Sono le radio nuove, facendo la negozio. Praticamente, essendo roba nuova, quando fa gli invece ci passeranno anni. Roba vecchia, sempre roba vecchia, anche queste radio non è che possono durare in eterno, capito? Sono sempre cose vecchie, però già vanno bene, sia quando vanno bene, poi quando ci bloccano pazienza. Papà, un po' di una volta avevo pigliato, sarebbe una televisione. Anche su quando, non so cosa lo conosci, su Pantone, invece, che a Cataluccio si racconta di televisione. E proprio c'è mancata 2-10 su un gruppo, che si varia un raggio, si varia. Beh, io ho capito quello di fronte alla, vicino lì alla pizzeria oggi, ma anche tu mi ci vuole raccontare televisori. Ma la verità per fare tutti, vabbè prima era già lo sai com'era, ma ti sto parlando un bel po' di tempo fa, non è che ti sono un po' vedendo davanti, ci sono un po' vedendo più di 10 anni, già come si fa la bamba, fatto un prodotto più da dire, si varia un raggio, si varia. Mi sembra che l'hanno operato quello, non è più grasso così adesso. Prendo da poco, è sempre parte dopo. Oh, sempre anni di pesci. Allora ci avevamo pregato 200.000 lire. Anche erano dei soldi, non è che erano, pochi. Quando c'erano di chi si trovava lì, allora era, ce n'era un sacco di questa televisione. Voleva televisione, invece che altri si fa la televisione quando ero stando a bagno. Non si è. Allora, già non sei meglio di me, che allora ce n'erano, di questi tempi. E la maggior parte era pure un vecchio coglione. C'era anche quello di Viale Mancini che era un po' pasticcione. Viale Mancini o Lascio Merco, non era esattamente lui. Quello che era molto bravo, anche stato televisore, è quello che c'avevamo di fronte a noi. Se lo ricordi c'era Radio Tempo, prima, quella proprio di fronte a noi. Di fronte dove, come si dice, aspetta, ma in via Manoliaz, papà, forse sì che c'era il senso. Ah, ho capito, io. Ho capito chi è. Ma quello non c'è più lì adesso? O c'è ancora? L'ho chiuso, hanno. Che c'è per laboratorio di Alghero, Caverna, Rosito, Cazzo, e l'altro non mi ha preso l'altro cognome. Con uno c'era ad Alghero, ce l'aveva anche il laboratorio. Ho capito. Vabbè, Bruniscio ha fatto entrare del leone, ci deve ammazzare Bruniscio, per carità. C'era ancora, ma non per la verità, c'erano bravi, non si poteva dire niente, lavoravano onestamente. Però adesso, purtroppo, le televisioni sono diverse. Oramai con 100 euro si compare un televisore, si faccia, a meno che non sia un televisore importante. Io piglia dopo un altro calzone, perché oramai i prezzi sono troppi come quelli di una volta. Già lo sai meglio di me che va a comprare un televisore a meno di quanto l'ho pagato prima. Beh, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, è così. Vabbè, è un bel casino, Guarda, purtroppo il televisore è stato imparato per pochi, perché oramai con quello che costano, si attacca di raccolto, secondo quanto richiede. Secondo quanto ci vuole un casino stesso. Ciao. Beh, grosso non vuoi più i nocchi. Non so se è andato a mangiare. Ma niente. Lui è andato sabato. Ovvio me, è andato sabato. Invece quelle avversarie sono un po' così, sono proprio. ma è esattamente quello che mi stai dicendo. No, io ce l'ho per il modello, tanto non me lo sento occhiali, devo mettere gli occhiali. Quadrato col comandone centrale, c'ha quattro attacchi, tre uscite e un ingresso, capito? Quello è buono, quello di sì. La testa di troppo fa, ma cose anche loro, fa le cose che non ci sono così, le cose meno che sono buone, dai. È come gli strumenti, c'è quello che è meno buono e c'è quello che va bene. E purtroppo non fa più così, dai. E infatti, alla fin fine poi, alla fin fine, guarda, per montare un'antenna o due baracchine vanno bene anche quelli normali, non c'è bisogno di avere grandi cose. Se puoi usare roba professionale che hai watt eccetera, allora conviene usare dei buoni commutatori, se no non vanno bene poi. Il fumo che andrò là non roba che non serve. E vabbè, può uscire il fumo, ma ti crea problemi anche sul ricevitore, sul trasmettitore, eccetera. È meglio usare roba buona, capito? Gamba. Poi io non ho capito perché non fanno direttamente a Roma come il capo si tocca e via. Tanto inutile che vende Roma così, che non è un granché. Poi si scioglie, ti dà problemi. Invece non conviene la tentativa che faccia direttamente a Roma come ci deve, almeno uno magari la paga anche 20 euro in più. Però sai che ce l'ha buono il pezzo. Non lo so come capo la penso. Te l'ho detto, fa delle cose buone, delle cose che non servono. A volte io ce l'ho un montatore di ZG, quello è buono perché l'ho già provato, funziona bene, ma ne avevo un altro a 4 che faceva in 10 di Zurich, mandava tutto il corpo le antenne, un casino va via. Fuori un pabbo dalla vacone, sarà ancora buttato nel piazzale, mezzo all'erba. Orgoglioso. No, ma che? Tra mezz'ora mi si abbassava, mi si arriva a segnale, abbassava, saliva, non c'è più già io, ho detto, l'antenna in corpo dove sei andato, qualche PL. Ho montato il contattore, ho visto che andava tutto bene. Oggi guarda, oggi fatto brava la vacone. Poi era chiuso, era rompendo gli occhi. C'era quello lì, il mezzo che commutava due radio, poi usciva, passava un'altra radio, mi faceva poco di casino. Ma di quello che gli ho fatto la mambetta. Infatti dalla volta non ha problemi. Assolutamente. Mi ha messo uno buono di commutatore, commuta il ricevitore con i baracchini e va benissimo adesso, non ci sono problemi. Ma già veniva poco di problemi, c'era l'antenna, l'antenna. L'antenna invece era un commutatore, ma... Era anche l'antenna che c'era problemi, però una volta sistemata l'antenna il problema c'era lo stesso. Invece c'era il commutatore d'antenna, capito? Non era più l'antenna, era il commutatore. Ma quella che c'è adesso va sempre bene, sì. Non è più caduta. No, è legata, va bene adesso. Legata? Perché che cosa l'hanno fatto? E l'ha ancorata meglio, capito? Perché prima si spostava. Si muoveva col vento, adesso invece non si muove più. Allora che cosa era? Era come la montata, era. Mi sembrava strano tutto quello che tutta quella polemica che c'era quella notte, cioè quella notte, tutto il giorno quella polemica, poi alla fine fa dire che vabbè. E lo so. Purtroppo sti guy. Poi vanno fatti bene, ma non fanno. Se uno non lo sa, bisogna chiedere. Quando i lavori sono fatti bene, qualsiasi cosa funziona bene, non ti dà problemi. E se non mi funziona bene, che problema c'è? Funziona alla grande, ma non bene, benissimo. Questa è con pure lui, no? Se puoi immaginare. Ah, arriva benissimo già un po'. Arriva molto bene, senza problemi. Ma... Se luglio vuol dire che va bene. Quando muoto la io lo sento molto solo. Se usa questo prende usa il coso, quello grande, lo sento bene. Tu senti anche a me. Vuol dire che la cosa è andente. Io vuol dire che è andente. E come se va benissimo. Va bene, non benissimo. Sono per coricarmi, erano alle due mi sono coricato dentro. Alle due? Alle due erano mando dei sogni. Già sono a quattro dormi mi va, a un'occhi. L'altro è tappato. Infatti, è tappato e non vedo niente lì. Se mi chiedono un controllo, manco vedo. Manco lo smettere, ecco. Scappa. Ah, è perché? Allora, praticamente è successa così. Era quella, l'anniversario di quel pancone lì. E mi è interessato, c'era lo speciale, c'era. E mi è interessato molto, siccome a me piace molto la storia, le storie così. Allora me l'ho seguito, allora ci sono fatte le due in casa, allora. Dopo girando, ho visto anche un bel film. E l'ho visto anch'io, quello, i film che hanno fatto per l'anniversario. Non c'è uno speciale proprio su Rai Uomo, le immagini, quelle vere. Ed era interessante, era. E io mi ero interessante. Questa roba, l'hai vista la cosa, la tragedia che è successa? Io l'ho vista, sì. Mi sto per funerale oggi in diretta. Per carità. riesce a capire cos'è che sta dando fastidio. Una cosa mi tra di scuola, non ci compiace. Sta tutto va bene, ma cazzo, molto più tornare dalle persone così, non c'è soprattutto, cioè, una ragazza di quella età e cosa, la crudeltà più bastarda che ci sia in questo mondo. Mi ha fatto un male vedere quelle immagini qua, ho girato il canale, perché cioè, magari non mi fa male se vedo qualcun altro, ma quando vedo cioè, queste cose qua, non mi vanno giù, hai capito? Lo so, purtroppo è così. Purtroppo è così, quando la gente è cattiva, non c'è niente da fare. Tanto io mi stacco, dai, vado a prendere l'antibiotico, poi ci sentiamo dopo, non so, ti auguro la buonanotte, che mi sta dando fastidio un bell'occhio. Non riesco a stare con l'altro aperto e... Da capo, dai. Non c'è problema, Cla, buonanotte, grazie della chiacchierata, dai. Buonanotte. Scusa se sono un po' assilloso. No, non figura tanto, non è quello il problema. È che mi stanno fastidio l'occhio, quindi non sono molto in forma, capito? Se mai ci sentiamo dopo, non spengo niente qua, lascio tutto acceso, dai. Mi allontano un attimino, vado di là, mi prendo la pastiglia, lo prendo l'antibiotico. Se mai torno dopo, se ci siete, dai. Ok. E calma, dai, lo lascio acceso un altro po', poi lo spengo. Ok, qua, fai, non c'è problema. Vabbè, ti auguro una buona notte, se non ci sentiamo. Calma. E dopo se coincide, ciao, buonanotte.